Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, come avete sentito dalla sigla. A proposito, buon pomeriggio a Gigi Borghi in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Apriamo così il sabato in diretta dello sport su Radio 24 con questa piccola variazione che avrete capito dalla sigla, che è formale e sostanziale e che insomma non sparisce Pallovale, che rimarrà comunque rubrica che ci farà compagnia ogni sabato all'interno di un contenitore che però vuole aprirsi a tutti gli sport, non solo al rugby. Parleremo infatti, anzi inizieremo tra un istante a parlare di sci, perché altro metallo pregiato è arrivato come splendida abitudine nei weekend di questa stagione, non solo per lo sci italiano. Parleremo di sci, parleremo ovviamente di rugby con rubrica apposita all'interno del programma, parleremo poi di calcio perché siamo in attesa di vedere ripartire il pallone della Serie A, mentre abbiamo già visto i primi gol dell'anno in Serie B e sono stati questi. Vi do il parziale all'inizio del secondo tempo in Serie B, seconda parte della trasmissione dedicata al calcio. Dunque, parziali in Serie B all'inizio del secondo tempo, dicevo, Sassuolo-Brescia non c'è perché è stata rinviata per ghiaccio questa partita, l'anticipo di ieri, oggi deciso un nuovo rinvio, e quello dei campi ai limiti della praticabilità, delle condizioni estreme, sarà un po' il grande tema di questa ripresa dei campionati. Anche in Inghilterra, dove si sta giocando la giornata di Premier League, ci sono stati un paio di rinvii: Fulham, Blackburn e Portsmouth, Manchester City, per impraticabilità del campo, per problemi di terreni gelati o allagati dalla pioggia. Anche in Francia ci sono diverse polemiche su questo fronte, un tema molto attuale che poi tratteremo. In Serie B si gioca invece sugli altri campi, dunque Albino Leffe Livorno 0-0, così come Ascoli Treviso, Avellino 3 Modena 1, Coman De Zerbi doppietta per lui, Catellani per il Modena, Bari 1 Salernitana 0 gol di Barreto, Cittadella Frosinone 0-0. Quindi l'Ancona sta vincendo 1-0 a Grosseto, gol di Turati al 12° del primo tempo, Mantova-Piacenza 0-0, Triestina in vantaggio 1-0 sull'Empoli, gol di Antonelli, Vicenza-Parma 0-0, il posticipo è Rimini-Pisa. Poi andremo sulla Serie B nel dettaglio verso la fine delle partite. Adesso però lo sci, come annunciato, Dario Puppo, buongiorno. Ciao Carlo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Anche oggi, anche in questo weekend, abbiamo subito cominciato a raccogliere medaglie. Due medaglie d'argento, due secondi posti ovviamente in Coppa del Mondo. Nel santuario di Adelboden, Blardone arriva alle spalle di Benjamin Reich per un soffio e mezzo al massimo. Mentre pochissimi centesimi di distacco, a Maribor in Slovenia vince l'Enfant du Pays Tina Mazze davanti a Denise Carbon. Dario, queste gare come sono andate nel dettaglio, nello specifico? Innanzitutto positivo il fatto che è arrivato questo primo podio di Denise Carbon, ha dimostrato soprattutto nella prima manche magari certi problemi si possono nascondere, nella seconda invece è già la fatica della prima manche, la gestione del tempo tra la prima e la seconda parte. Io credo che Denise abbia dimostrato di stare meglio fisicamente, insomma c'erano già stati segnali, lei l'aveva già fatto sapere, e questo è positivo, vuol dire che la sua stagione è cominciata ufficialmente oggi praticamente. Ha avuto un paio di problemi in questo avvio d'inverno, questa è la notizia più bella. Poi a batterla è stata una campionessa che sembrava non poterlo essere più, perché erano passati più di 3 anni dall'ultima vittoria di Tina Mazze, un grande gigantista che aveva vinto quasi per caso per condizioni climatiche favorevoli una discesa, però era veramente da tanto tempo che non otteneva un risultato del genere, e quindi c'è un avversario in più oltre alle solite note per Denise Carbon. Invece il discorso è diverso, possiamo solo aggiungere per la gara femminile che la Mölge, come anche il fratello sia Manuela che Manfred, non hanno approfittato fino in fondo dell'occasione, insomma lei era stata terza dopo la prima manche ed è scivolata di altre 2 posizioni, Manfred invece è uscito subito nella prima commettendo un'ingenuità strana per lui che è molto continuo in termini di risultati. A battere Blardone però, Carlo, in questo caso c'è stato veramente un grandissimo campione. Sua maestà Benjamin. Però prima di lasciare il fronte femminile volevo chiederti una cosa su Denise Carbon, in prospettiva gigante mondiale in Val d'Isère. Come da leggere questo risultato appunto in prospettiva mondiale, questo secondo posto? Ma uomini e donne gareggiano su piste differenti, è una situazione un po' strana, curiosa, insomma è la prima volta che di fronte una all'altra ci sono le due piste dove si gareggia, perché praticamente da una parte e dall'altra della valle ci sono le piste dove gareggiano uomini e donne. Quella maschile è la più, insomma, tecnica che ci sia nel circuito, è la Far de Belvoir. Io penso che Denise effettivamente abbia questa occasione, ha già vinto altre medaglie in passato, nel 2001, poi nel 2007, passando attraverso diversi infortuni. È la grande occasione, insomma, lo sanno anche le altre che se sta bene è lei la sciatrice da battere. Io penso che per lei sarà molto importante gestirsi da qui alle prossime 3-4 settimane, poi il resto lo farà la capacità di gestire la tensione. Penso che sappia anche lei, insomma, del ruolo che ha. Io, la concorrenza c'è, perché comunque sì. La Ragout non ha nessun peso sulle spalle, è una ragazzina che soprattutto nella seconda manche spesso è capace di grandi numeri. Poi abbiamo visto, insomma, la Von nella specialità in cui, insomma, è meno attrezzata, riesce comunque a essere competitiva. Certo, altre sono specialiste davanti, le austriache non soltanto, anche la Hölzel abbiamo visto che sta crescendo, insomma. È indubbio che la concorrenza è aumentata rispetto allo scorso anno. Lei ha meno margine, però comunque sia, se sta bene può fare la differenza. Può fare la differenza. Quindi questi risultati vanno letti appunto come marcia di avvicinamento al mondiale, partita con qualche problema a Denise. Adesso sta scaldando il motore. Adesso andiamo invece a Delvaux, è un santuario dello sci, Dario. Sì, la definiscono l'università dello sci. L'università, c'era qualche laureato oggi che correva, insomma. Beh, Blardone secondo solo alle spalle di Benjamin Reich, che come dicevi prima è un fuoriclasse assoluto, però grande gara quella di Max. Senza nulla togliere a Maier, che ha problemi alla schiena in questo momento, ma è il più forte in attività dei gigantisti Reich, perché continua a vincere, è già la seconda vittoria in stagione, ha pareggiato il conto con Albrecht, oggi ha deluso la squadra elvetica. Reich invece sta dimostrando un po' quello che ha dimostrato Grange in slalom, cioè entrambi sono riferimento nella propria specialità. Reich che ha approfittato bene della prima manche, ha fatto la differenza, l'unico che gli è stato in scia è stato proprio Blardone, che poi ha sfruttato anche la tracciatura di Guadagnini nella seconda manche, soprattutto in fondo dove gli ha recuperato un paio di decimi, però nella parte centrale Reich, dove girava un po' di più, ha fatto proprio la differenza lì, prendendo a Max 4 decimi e lì poi è stato bravo a gestirsi sul muro, che è uno spettacolo, perché quando gli atleti si affacciano lì vedono questo muro di ghiaccio, ma di fronte anche quello di gente, di pubblico, che anche oggi ce n'erano 20.000, insomma lo sci sta riscuotendo sempre più successo, e anche Blardone, perché era partito male, sembrava addirittura che la sua stagione fosse già compromessa per il discorso del cambio dei materiali, e invece ha dimostrato di esserci ancora, insomma 17 podi in gigante non sono poche, e soprattutto si sta abituando a questo tipo di risultati, al di là del passo falso in Alta Badia. Sì, anche qui in prospettiva Val d'Isère, insomma sono risultati da guardare in controluce, assolutamente incoraggianti. Domani invece, Dario, è il giorno degli slalom. E domani speriamo Nicole Giussi in campo femminile, perché è già stata capace del podio a Zagabria. Al maschile invece ormai è scoppiata la mania per Razzoli, insomma il nome nuovo, un po' perché ricorda Tomba, visto che viene dalla stessa terra, anche se lui è reggiano, e poi perché ha una forte simpatia, un po' come i Neroffer. Speriamo che, insomma, la squadra possa confermare gli ultimi risultati. È la squadra nelle discipline tecniche che sta dando maggiori cose al settore dello sci alpino, e domani ci potrebbe scappare un altro podio, tenendo presente che la vittoria probabilmente se la giocano ancora in due, e sono sempre loro, Kostrić e soprattutto Grange. Grazie Dario, allora a domani. Grazie a voi. A domani per parlare degli slalom. Ne approfitto per ricordare che nulla cambia invece, e nulla cambierà con il nuovo palinsesto per quanto riguarda gli appuntamenti con lo sport nel corso della settimana, con Tempo di Sport e Gigi Garanzini dal lunedì al giovedì, con Palla Spicchi al venerdì alla stessa ora dalle 14 alle 15. Il sabato, ripeto, saremo qui dalle 17 alle 18 con A Tempo di Sport, e all'interno di A Tempo di Sport, anzi subito dopo il traffico, cominciamo a parlarne di rugby, all'interno di A Tempo di Sport appunto questa rubrica dedicata al rugby, ma sarà contenitore onnicomprensivo, insomma, che darà diritto di cittadinanza ad ogni sport, e darà diritto di cittadinanza come sempre a tutti gli ascoltatori che vorranno intervenire. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666, e nulla cambierà anche per quanto riguarda naturalmente la domenica, appuntamento dalle 17 alle 19, poi dopo il GR delle 20 con il basket e dalle 22 alle 23 per chiudere la giornata. Altro rapido sguardo ai risultati di Serie B in divenire, nulla cambia per Albino Leffe Livorno e Ascoli Treviso, sempre sullo 0-0, segna invece il Modena, accorcia le distanze sull'Avellino, siamo ora 3-2, sempre 1-0 del Bari sulla Salernitana, 0-0 Cittadella Frosinone, Mantova Piacenza. Il Grosseto vince 2-1 con l'Ancona, ribaltando tutto all'inizio della ripresa con Pellicori e Freddi tra il 12° e il 14° minuto. Triestina sempre a condurre sull'Empoli 1-0, Vicenza Parma 0-0. Adesso è il momento di far rimbalzare la palla ovale. Palla ovale. Buon pomeriggio e buon anno a Giacomo Bagnasco. Buon pomeriggio e buon anno a te Carlo e a tutti gli ascoltatori. Ritorna al Super 10, anzi è già tornato all'Epifania Super 10, incoronando la regina d'inverno che è Viadana. Non si gioca però questa settimana al sabato, bensì alla domenica, non Giacomo? Quindi intero programma domani. Sì, l'intero programma è spostato a domani, probabilmente anche per dare un giorno di riposo in più, visto che si è giocato di martedì l'ultimo turno del girone d'andata. Il Viadana ha vinto anche il Benetton e queste due squadre si sono un po' staccate verso la cima della classifica perché le due inseguitrici più vicine hanno stentato. L'Overmac ha perso male in casa dal Cammi Calvisano in ripresa, ma Overmac in difficoltà in questo momento. Il Femici Z Rovigo ha pareggiato in casa con il Venezia e anche questo è un passo falso, un po' inatteso, quindi Viadana e Benetton conducono, niente di veramente nuovo per dire la verità in questo campionato, comunque un Viadana che sicuramente fa valere il suo gioco, più sicuro di sé in trasferta rispetto al passato, è la squadra che ha segnato più mete, 27 mete, che esprime il metaman del campionato ed è un italiano, Samuele Pace, che ha segnato 6 mete, è seguito poi da ben 5 giocatori di origine straniera, McLean del Calvisano, Williams del Treviso, Pedersen del Parma, Robertson del Viadana e Gary Lowe ancora del Viadana, quindi un Viadana sugli scudi, anche perché è di fatto l'unica squadra che ha reali possibilità di passare il turno in Challenge Cup, e questo sarebbe un risultato importante perché nessuna squadra italiana è mai riuscita ad arrivare ai quarti di finale in Challenge Cup, non parliamo poi dell'Heineken che è la Champions League dell'ovale, che ci sarebbe sempre in difficoltà quantomeno, Giacomo. Ah sì. È appunto il giorno buono questo per fare il punto a metà del cammino. La classifica dice, per l'appunto come riepilogata prima da Giacomo Bagnasco, però in termini numerici Viadana 33, Benetton 32, poi appunto staccata l'Overmac Parma 27, Calmi Calvisano e Femici Z Rovigo 25, Calvisano poi ne parliamo, credo possa essere battezzata come la delusione di questa prima metà di campionato, anzi non ho dubbi su questo. Carrera Petrarca Padova 17, quindi a 14 Futura Park e Plusvalore Gran Parma insieme al Casinò di Venezia chiude l'altra romana, l'Almaviva Capitolina, con 11 punti. Ma vorrei parlare dei campioni d'inverno con l'allenatore di quella mischia, cioè Andrea Moretti, mischia del Viadana. Buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio a lei. Dunque, questo campionato che cosa sta dicendo per Viadana e per quanto riguarda le altre, a partire da Calvisano, che dicevo prima, la delusione della stagione? Ma partiamo da Viadana, campione d'inverno. Soddisfatti? Beh, sicuramente siamo soddisfatti perché in questi primi, diciamo, 5 mesi di lavoro, da quando abbiamo cominciato la preparazione a luglio fino adesso, insomma, qualche risultato in termini di gioco e di consistenza nelle prestazioni che facciamo ogni settimana, insomma, l'abbiamo raggiunto. È ovvio che siamo solo a metà stagione, per cui quando poi si riprenderà il campionato dopo la sosta tra la Coppa Europea e le 6 Nazioni, si giocherà poi la fase più importante, quella che alla fine poi conta di più, che è l'ultima parte di stagione, dove poi si segnerà anche lo scudetto. Giacomo, devo chiedere ad Andrea Moretti. Ma io vorrei parlare delle Coppe Europee, perché In challenge per adesso il Viadana su quattro partite ne ha vinto tre, battendo due volte il Mont-de-Marsan, la squadra francese battuta sia in Francia sia in Italia, e battendo in trasferta nei Paesi Baschi il Bayonne. Quindi una sconfitta sola in casa con i Saracens inglesi. Nel prossimo turno ci saranno di nuovo i Saracens a Londra e probabilmente si perderà, però c'è questo incontro casalingo con il Bayonne che potrebbe segnare un momento storico, se vogliamo. Volevo chiedere ad Andrea Moretti se lui ritiene che questa differenza di rendimento tra le squadre inglesi e quelle francesi nella Challenge Cup ha una spiegazione, cioè se può voler dire che nel campionato inglese c'è un maggior livellamento verso l'alto e quindi anche le squadre di seconda fascia sono quasi inarrivabili per le nostre, oppure se magari le francesi che giocano la Challenge non dedicano un'importanza eccessiva a questa competizione. Ma sono due osservazioni importanti e comunque allo stesso tempo hanno le loro valenze, nel senso che sicuramente la Guinness Premiership, che è il campionato inglese, è il campionato più competitivo d'Europa, e su questo non c'è dubbio, nemmeno il Super 14 francese è comunque a livello di qualità può competere con la Guinness Premiership, per cui anche le ultime classificate della Guinness Premiership sono squadre comunque importanti, con giocatori importanti, rose di 38-40 giocatori e quasi tutti sono internazionali. Il campionato francese è un po' più forse varia, è un po' più varia, nel senso che le ultime 3 o 4 squadre del campionato francese sono sicuramente più abbordabili da parte di un campionato di squadre di vertice nostro del campionato italiano. In più, come avevi detto tu, sono d'accordo, generalmente nella Coppa Europa, diciamo nella Challenge, le squadre francesi puntano meno, diciamo, fare risultato e più forse far riposare qualche giocatore importante in vista del campionato che per loro sicuramente è più importante, mentre non fanno così se giocano in Heineken Cup. Ecco Andrea, volevo chiederle invece, prima di toccare insieme l'argomento calvisano, volevo chiederle come lei interpreta, come lei legge, da addetto ai lavori, da allenatore di una squadra importante come Viadana, come lei legge il tentativo di rivoluzione con cui si è chiuso l'anno, e mi riferisco alle decisioni federali sul futuro del rugby italiano nella Celtic League. Ma ci sono due, per quanto mi riguarda, a mio modo di vedere, ci sono due motivi fondamentali. Penso per quanto riguarda appunto la scelta di entrare in Celtic League, il primo secondo me è più un motivo economico e di prospettive economiche che può portare una competizione del genere sia in Italia alla federazione che ai club italiani. La seconda cosa che secondo me viene messa da parte se le due selezioni, le quattro selezioni che parteciperanno, parteciperanno con, come si era detto, con 17 giocatori italiani che possono essere appunto eleggibili per la nazionale e 5 sì. stranieri. Allora se viene fatta in questi termini, allora c'è anche l'aspetto puramente appunto rugbistico, che questo potrà portare sicuramente giovamenti anche alla nazionale, sì. perché giocando 17 giocatori eleggibili alla nazionale vuol dire che devi fare giocare la maggior parte di italiani. Certo. Questo però, a mio modo di vedere, porterà sicuramente nei primi 2-3 anni un impoverimento della capacità e della qualità delle due squadre che andranno a giocare in Celtic League. Certo. Perché comunque ancora non abbiamo un bacino che possa permettere di giocare con 17 giocatori di vera qualità. Però certamente bisognerà avere pazienza, no? Come l'abbiamo avuta con la nazionale per anni. Bisogna avere pazienza, però almeno questa è la mia idea, sarebbe un work in progress, cioè sarebbe un progetto davvero interessante, nonché rivoluzionario non solo per il rugby ma per lo sport italiano, perché da lì si potrebbe costruire un castello importante, insomma, mentre così si ha un po' l'impressione di non andare da nessuna parte. Vorrei sentire invece, prima di salutarlo, un'opinione su Calvisano. Dicevo prima che abbiamo detto Viadana campione d'inverno, la delusione penso possa essere Calvisano, non ci sono dubbi, no? Con quei 25 punti, con questo distacco forte già dalle prime. Sì, in un certo senso, ma più che per delusione, insomma, vorrei parlare anche di un momento di forse così, dove hanno trovato alcuni problemi sia di formazione, di infortuni che di preparazione, ma Calvisano lo conosciamo già dall'anno scorso, hanno avuto più o meno uno stesso inizio di campionato l'anno scorso e dopo alla fine nella seconda parte di stagione hanno inanellato 11 vittorie consecutive e si sono lavorati campioni d'Italia, per cui penso che da questo punto di vista, insomma, Calvisano abbia già l'esperienza per poterne uscire, ecco, forse quello che un po' per quanto mi riguarda appunto abbia deluso un po' le aspettative è forse Petrarca Padova, che in questo momento sta raccogliendo sicuramente meno di quanto abbia fatto l'anno scorso, e può darsi questo comporterà anche forse un loro passaggio in semifinale. Sì. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie. Grazie Andrea Moretti, allenatore di Mischia, dei campioni d'inverno del Viadana. Giacomo, anche la tua idea su Calvisano, cioè Calvisano che può piazzare lo scatto nella seconda metà di campionato, mentre Petrarca ormai tagliato fuori con quei 17 punti dai posti al sole? Beh, certo, il Petrarca sorprende, oltretutto domani avrà questo derby a Rovigo che è così tradizionalmente il derby più sentito. È stata per anni e anni la partita anche più importante del campionato, non è più così. Comunque il Petrarca è messo veramente male, basta dire che a 6 punti dall'ultima in classifica, che è l'Almaviva Capitolina, che peraltro ha vinto le ultime due partite e ha riaperto il discorso salvezza, ricordiamo che scende dal Super 10 alla Serie A solamente una squadra, ed è a 16 punti invece il Petrarca dalla vetta della classifica, quindi la squadra padovana va male e tutto sommato forse è in bilico anche l'allenatore, lo scozzese Graham, che è arrivato quest'anno, ex pilone di livello, un altro uomo esperto di Mischia, ma forse nei suoi ranghi tecnici il Petrarca gli esperti della Mischia li aveva già, era meglio forse puntare a qualcuno più specializzato sulla manovra dei tre quarti. Il Calvisano effettivamente è partito molto male, forse era anche un po' appagato per lo scudetto vinto, però ha fatto bene Moretti anche a ricordare che l'anno scorso dopo un girone d'andata deludente anche proprio dal punto di vista della tenuta psicologica della squadra, che aveva così collezionato delle sconfitte anche brutte, si è ripreso. L'ultima notizia di giornata è quella della Roma, la neopromossa Futura Park Roma, che non sta disputando in assoluto un cattivo campionato, ma ha deciso di esonerare almeno temporaneamente il suo allenatore Stefano Bordon. Non si conoscono i motivi, certo nel mondo del rugby è una cosa un po' insolita, soprattutto, ripeto, perché questo allenatore aveva portato la squadra in Super 10 e la squadra aveva comunque giocato delle buone partite, aveva collezionato punti importanti, ha vinto il derby con l'Almaviva Capitolina. Lo stesso Bordon, interpellato, ha detto: ma io non posso commentare niente perché finora non so i motivi che hanno portato al mio esonero e quindi non posso ribattere in alcun modo. Un po' di calcite, insomma. Grazie Giacomo. Grazie a voi. Grazie Giacomo Bagnasco. Tempo di sport del sabato, tutti gli sport hanno qui diritto di cittadinanza, anche quelli delle rotelle, come scrive un ascoltatore. Ne parleremo a uno di questi giri, perché siamo, come sottolinea Mauro, all'avanguardia nel mondo in tutte le sue versioni degli sport su rotelle, corso artistico, hockey, ne parleremo, una promessa. Calcio. Con questi risultati che stanno cambiando in Serie B, il Livorno è ora passato in vantaggio a Bergamo con l'Albino Leff e gol di Pulzetti. Ascoli Treviso resta 0-0, sagra del gol nel confronto di retto salvezza tra Avellino e Modena, siamo ora sul 4-3, ma il tassametro continua a correre. Bari 1, Salernitana 0, Cittadella Frosinone e Mantova e Piacenza 0-0, Grosseto 2, Ancona 1, raddoppio della Triestina ad Empoli, gol di Granosch 2-0 dunque, con l'Empoli in casa Trieste, e gol del Parma a Vicenza, gol di Reginaldo al 23esimo della ripresa, dunque Parma 1, Vicenza 0. Uno dei temi più gettonati in questa ripartenza dei campionati è quello dei campi ghiacciati, della condizione delle squadre, del modo in cui le squadre avranno lavorato in questa importantissima sosta invernale. Da tra oggi e domani, giù la maschera, capiremo diverse cose. Insomma, questo è uno dei temi forti di questo momento. Possono intervenire anche gli ascoltatori, 800 24 0024, sono anzi graditi. ma può intervenire soprattutto un, parliamo di preparazione atletica, beh, un califfo della preparazione atletica che non capisco perché calcio italiano vi abbia al momento rinunciato. Forse è stato lui a rinunciare al calcio italiano, non lo so. Vincenzo Pincolini, buongiorno. Buongiorno a voi, ciao. E meno male che ha segnato il Parma. Segnato il Parma, però ha pareggiato il Vicenza, Vincenzo. Allora, stavo seguendo proprio sul televideo la 0-0-0-0. Sgrigna, 0-0-0. Sgrigna, 31esimo. E mancano di un quarto d'ora. Dai. Manca ancora un po', Vincenzo. Che lavora adesso, come tutti voi saprete, a Kiev nel giro. Come stai lavorando adesso? Ma abbiamo incominciato oggi. Abbiamo iniziato oggi, abbiamo 5 giorni qua in base alla Dinamo di Kiev. E devo dire che anche per me, quando sono arrivato a Kiev, perché conoscevo Kiev, perché me ne aveva parlato e anzi aveva spinto perché io venissi qua un anno e mezzo fa, Shevchenko mi diceva: guarda che vai a lavorare in un contesto eccezionale, e chiaramente era vero. Noi qua ad esempio stiamo lavorando adesso questi 5 giorni prima di andare in Spagna, andremo a Marbella. In un ambiente, abbiamo un campo regolare coperto con un sintetico di ultimissima generazione che hanno cambiato alcune settimane fa, e si sta lavorando perfettamente, perché ormai anche noi l'anno scorso ci siamo giocati sui sintetici l'ingresso in Champions League battendo lo Spartak a Mosca su un campo sintetico. Allo Zniki. Quindi stiamo lavorando bene, e poi andremo a fare un precampionato vero, cosa che ad esempio purtroppo per il nostro mestiere in Italia non si fa più. Noi andremo, adesso abbiamo da oggi fino al 18 di febbraio, dove rientreremo in UEFA contro il Valencia, abbiamo proprio tempo per riallenarci, per ripreparare l'ultima parte di stagione. Qua in Ucraina non è come in Russia, si gioca in pratica con un calendario all'italiana, con una grande pausa che permette di ricaricare le pile. Chiaramente lo stesso periodo per ricaricare ce l'hanno i russi, e ricordate l'anno scorso come finì la finale di Coppa UEFA, ad esempio lo Zenit. Chiaro che fermarsi, riallenarci, ripartire con più forza, senz'altro è a favore di un calcio più bello di quello che stiamo vedendo. Senti Vincenzo, già che siamo in argomento, e per inciso, hai parlato di Shevchenko, tuo grande amico. Lo rivedremo secondo te Shevchenko, ma quello vero? Guarda, io ti giuro che da quando, mentre l'anno scorso lo vedevo, non dico depresso perché è una parola grossa, ma non si può fare calcio senza avere motivazioni, e Sheva al Chelsea non aveva motivazioni. Io che lo incontro quando torna qua a Kiev per giocare con la nazionale, lo incontravo felice come un bambino e voglioso di allenarsi tantissimo. Io credo che un po' di spazio sicuramente lo potrà trovare. Fino adesso io l'ho visto anche giocare con la nazionale, è diventato secondo me un po' troppo sgobbone, cioè dovrebbe lavorare un po' di meno per fare cose un po' più decisive, per avere più forza nel momento in cui gli serve. Quindi sei del partito di quelli che dice che lo rivedremo. Sicuramente un giocatore integro, se noi andiamo a vedere la sua storia non ha grossi infortuni, quindi cioè è un'età biologicamente ancora può dimostrare tantissimo. Certo, ecco. Quanta l'età sì, deve scattare qualcosa nella sua testa, io credo. Io credo proprio di sì, io penso che sia in quelle situazioni dove potrebbe bastare un gol, una buona prestazione, un po' più di fiducia. Insomma, è chiaro che lui ha voluto tornare al Milan sapendo che lì tantissimo spazio non c'era. No, chiaro. Vincenzo, vorrei tornare invece ai campi sintetici, perché in settimana con Gigi Garanzini abbiamo dedicato praticamente un programma. È intervenuto anche Piero Volpi, è intervenuto Giannini, che è in testa al suo campionato, l'ex C1, con il Gallipoli, giocando proprio su un prato sintetico. Tu da che parte stai? Ti piace o non ti piace? Io ero quasi integralista dalla parte del prato vero, sintetico. Esatto. Poi invece ho visto, anche soprattutto quando stavo in Italia collaborando, per dire, non è pubblicità tanto, con la rivista Il Nuovo Calcio, abbiamo fatto molte inchieste, e alla fine mi ero reso conto che intanto, attenzione, le superfici sono cambiate nettissimamente. A volte si considerano sintetici campi che non sono più neanche di penultima generazione. Certo. Poi ho avuto modo di vedere questi sintetici misti, addirittura che non ti accorgi nemmeno che sono sintetici misti. Io credo che dove si possono tenere i campi perfettamente, come in Inghilterra, si fa bene ad andare avanti così, piuttosto che vedere certe scene a casa nostra. Probabilmente Bravissimo. Sarebbe meglio pensare a qualcosa d'altro. Per perfettamente d'accordo su tutto il fronte, Vincenzo, perché è chiaro che l'erba è un'altra cosa, però che sia erba e che non sia qualcosa di nemmeno somigliante. Certo. Vedo da qua, vedo veramente dei campi che sono, le vedevo prima di Natale, poi sai anche queste scelte in Italia, attenzione perché noi parliamo dei campionati più importanti perché hanno vetrina, quest'anno si è deciso di far giocare i dilettanti, il 6 e l'11 di tanto che nel nord Italia si stanno rimandando tutte le partite, tutte. Per finire entro il 3 di maggio. Io non capisco veramente cosa abbiano in testa quelli che fanno i programmi, perché a vedere i dilettanti la promozione dell'eccellenza non va più nessuno. Se li facessero giocare la sera in maggio e giugno, secondo me qualcuno andrebbe, come si va invece alle coppe dei bar, per dire che sono piene di gente. Ecco. ma è così, sai. La fantasia non dicono che siamo un popolo di fantasiosi, mica tanto. Guarda, siamo un popolo di burocrati più che altro. Lo dico da un po'. Secondo me per fare spettacolo occorrono tante cose, grandi squadre, chiaramente grandi giocatori, però tutti questi devono essere messi in condizione di esprimersi bene, insomma, ci deve essere tutto. Giocare con dei campi al limite, ho visto oggi che in Serie B hanno rimandato una partita perché il campo era gelato, per dire, e non è in montagna sopra Bolzano, ecco, Sassuolo. Giocare la sera è sicuramente molto molto impervio con le temperature di questi giorni, quindi non abbiamo spazio per allenarci, ci fanno giocare sui campi brutti, è un po' pretendere belle partite, è veramente difficile. Mettiamoci dalla parte di chi paga i biglietti. Io sono di quelli che da quando sono in Ucraina dico: e perché non giochiamo un po' più d'estate? Attenzione. No, ma questo non fa una piega. Creando la pausa, un po' più di pausa d'inverno, giochiamo pure d'estate. Certo, perché quando io vedo che noi ci fermiamo 20 giorni, 24, ma ci fermiamo due volte all'anno, è tutto sommato sufficiente. Certamente. Quindi cosa ci possiamo aspettare? Temperature polari, campi ghiacciati, non un grande spettacolo alla ripresa del pallone. A Genova, saprai, si gioca su un campo inventato. Qualche giorno fa sotto la neve, in pratica. Pericoloso. Alle 18 c'è Genoa-Torino su questa specie di campo. Ma adesso non per la moda del cielo, noi, cioè, guai, io devo tutto al calcio italiano per la moda del cielo. Però se guardiamo in Francia, se guardiamo in Spagna, se guardiamo in Inghilterra, in Germania, non è così, per dire. Cioè, ad esempio hanno risolto il problema dei campi tutti ormai, abbiamo giocato con l'Arsenal, appena finita la partita l'Anfield Road, hanno tirato fuori queste strutture per far lavorare l'erba anche di notte, sono grandi lampade che simulano la luce del sole per far lavorare l'erba, cioè i campi sono chiusi come i nostri. Certo. Cioè, dobbiamo finire, anch'io quando ero al Milan dicevo delle cose, dicevo ma San Siro è più chiuso, adesso vai in giro ti rendi conto che chiaramente ci sono degli altri climi, però sicuramente chiaramente si possono fare altre cose, ecco, perché se hanno i campi belli qua in Ucraina o in Russia, io credo che in Italia sia un po' più facile. Vagamente più facile. Vincenzo, ti chiedo ancora questo, Milan che va a Dubai a fare la preparazione invernale, a rastrellare magari un po' di soldi, Inter che invece a differenza dell'anno passato rimane ad Appiano. Rimango convinto del fatto che l'Inter l'anno scorso abbia pagato nel girone di ritorno i suoi viaggi di Natale. Certo. Quest'anno sono curioso di vedere cosa succede. Ma sai, quest'anno la sfiga, anche se può passare la parola, dell'Inter che ha fatto veramente, siamo tornati a un inverno antico, ecco. Sì. Io ho avuto la fortuna di stare per Natale in montagna con 2 metri di neve, vivo a Salso Maggiore, i giorni scorsi sono caduti 45 centimetri di neve, quasi come a Milano, per dire, quindi la sfortuna che quest'anno ha trovato la stagione, però ci si può attrezzare con dei campi non regolari come il nostro coperto, ma con delle metà campo coperte, ci si potrebbe attrezzare a continuare a lavorare perfettamente e poi probabilmente ci si potrebbe spostare anche molto meno, perché hai presente che io volevo organizzare un ritiro della Dinamo in Italia, non si trova uno spazio per venire, quindi per dire in Italia muoversi basterebbe andare sul centro Italia, basterebbe andare per dire in Sicilia, un'ora di aereo, ecco, senza fare troppi dei voli lunghissimi. È molto difficile, quindi alla fine stai a casa perché hai molte più comodità per seguire chi ha qualche problema e poi chiaramente qualche scotto lo devi pagare, ecco, mi ricordo anche quando eravamo al Milan dove facevamo dei periodi sotto il pallone con un 40x25, insomma, non è il massimo ma ci si può allenare. Certo, se è l'unico periodo dove hai tempo per fare qualcosa di generale non riesci a farlo per via del tempo, è chiaro che rischi molto e probabilmente... Quindi tu saresti per la ricerca di un clima appropriato magari non dall'altra parte del mondo? No. non hai bisogno di trovare 25 gradi, basterebbero 15, 16, 17, come normalmente, attenzione, si potrebbero trovare anche in Toscana, in Versilia, ecco, d'inverno, sì. Perché io è una zona che frequento e noi ci andavamo ai tempi del Parma con Arrigo Sacchi, e purtroppo quest'anno è stato talmente brutto dappertutto che probabilmente può darsi che l'abbia fatta giusto il Milan andando a Dubai, anche se i voli sono lunghi, anche se poi là, per dire, hai talmente tanti obblighi dal punto di vista anche così dell'immagine, certo, che forse un pochino rischia di scapparti via la concentrazione. Tanto il Parma è sempre un 1-1, Vincenzo. Eh beh, niente, dai, facciamo il tifo fino in fondo. Facciamo il tifo fino in fondo, noi facciamo il tifo per te invece, grazie, buon lavoro. Vi ringrazio tutti, buona trasmissione a voi. Grazie davvero a Vincenzo Pincorini, sempre numero uno secondo me, quando si parla di preparazione atletica, gusti personali. Ancora parziali in B, Livorno 1, Albino Leffe 0 a Bergamo, Ascoli Treviso 0-0, Avellino 4, Modena 3, Bari 1, Salernitana 0, Cittadella Frosinone e Mantova Piacenza 0-0, Bari 1, Salernitana 0, Grosseto 2, Ancona 1, Triestina 2, Empoli 0 e, come si diceva prima con Vincenzo Pincolini, Vicenza-Parma 1-1. Abbiamo due ascoltatori in linea, Salvatore da Como, come già annunciato, si è aggiunta alla compagnia Stefano dalla provincia di Imperia. Salvatore, buongiorno. Buongiorno, buonasera, come vuole. Come vuole lei. Ascolti, va bene. Ascolti, io come ripeto, chiamo da Como. Sì. Como ha fatto mezzo metro di neve. Sì. Campionati sospesi all'improvviso, perché no, anche se avevano già avvertito che ci sarebbe arrivata la neve. Ma io dico, ma non si accorgono i responsabili dei comitati locali, regionali, che da una vita l'Italia, purtroppo, per fortuna, è lunga e stretta. E fra il Salento, la Calabria, la Sicilia e il Piemonte, l'Lombardia e il Trentino. Si passa in tanti altri posti, ma certo. Certo. No, allora dico io, o fanno i campionati, parlo dei dilettanti chiaramente, con minore squadre, se invece di 16, 18 ne fanno 12, in questo modo possono sospendere i campionati, come fanno a Chiasso, che siamo attaccati a Como, no? Quindi qual è la differenza fra la Svizzera che è sospende per due mesi i campionati e a 100 metri di distanza che invece non facciamo niente e addirittura fissiamo i recuperi, no, ma per il 6 della Befana, no, per l'11 del gennaio, i recuperi che non si sono fatti ai primi di dicembre, ma sono proprio ottusi. Guardi Salvatore, vale il discorso che si faceva prima con Vincenzo Pincolini, no? Basterebbe un po' di fantasia nella strutturazione dei calendari anche per rilanciare campionati di questo tipo, perché lasciamo perdere quest'anno dove siamo a Milano, guardo fuori dalla finestra, sembra Helsinki, la neve è caduta in maniera non usuale sul nord Italia, un inverno particolarmente rigido, però sappiamo tutti che in linea di massima d'inverno fa freddo, d'estate fa caldo, a primavera si sta bene, quindi basterebbe un po' di fantasia nella riorganizzazione anche di questi campionati dilettanti e appunto la base del calcio, anche per ridare interesse, ridare magari anche pubblico, ridare smalto nuovo a questi campionati. Quindi è un discorso che abbiamo già fatto e che regge questo. Vincenzo Pincolini giustamente diceva prima, a vedere queste partite ormai non va nessuno, figuratevi d'inverno, proviamo a farli con un'altra formula, proviamo a spostarli verso la primavera, proviamo ad usare in altro modo il calendario. Sono tutti discorsi che stanno in piedi, che a maggior ragione sotto la neve o sopra la neve, come volete voi, di questo periodo hanno maggiore diritto di cittadinanza, dovrebbero portare a riflettere. Poi sicuramente non capiterà, l'anno prossimo saremo ancora qui, non so se con la stessa neve, ma certamente con gli stessi calendari. Grazie Salvatore. Stefano, provincia di Imperia, buonasera. Pronto, buonasera, grazie anche a lei per la possibilità di parlare. Ma grazie diretta. A voi. Senta, le volevo parlare di un altro argomento, io volevo cambiare un attimo argomento. Prego. Volevo parlare un attimino della questione, diciamo così, se così si può parlare, di Balotelli. Io premetto che io sono un tifoso dell'Inter e quindi lo vedo anche in primo piano, diciamo, in prima persona. Cioè, voglio dire, ma ci rendiamo conto come siamo ridotti? Io parlo dell'Italia perché io conosco l'Italia, vivo in Italia. Cioè, questo ragazzo praticamente non ha fatto ancora assolutamente niente, perché non ha dimostrato ancora assolutamente niente di quello che potrebbe fare un domani, a 18 anni, ha appena firmato un contratto, pare, almeno così dicono sui giornali, da più di 1 milione di euro all'anno, roba che sarebbe della gente che farebbe veramente le capriole, farebbe di tutto, farebbe allenamenti 8 volte al giorno, non 2 volte al giorno. Cioè, e adesso già si atteggia come se fosse un giocatore arrivato. Cioè, manda il procuratore, manda il fratello a parlare con la società, non si allena come si dovrebbe allenare. Beh, ma questi più che atteggiamenti sono insomma, è il modo di vivere oggi di un calciatore, lasciando stare l'età, lasciando stare il progresso, eccetera. Più che altro, Stefano, La preoccupazione di Balotelli, non so quanto giustificato o giustificabile, tra un attimo vi faccio risentire cosa ha detto Mourinho, è nell'idea di giocare di più. L'idea di giocare di più che in una prospettiva di crescita. Secondo me tutta la situazione è stata mal posta in origine, no? Però se un giovane chiede spazio, chiede di una collocazione in cui possa giocare, perché noi siamo abituati a vederli dire ah quanto sono bravi e poi a sbatterli in panchina, mi viene in mente subito Giovinco, no? Insomma, se un giovane chiede di giocare di più è un discorso che magari, che certamente fatto in altri termini, con altri toni e in un'altra maniera può starci. Mi perdoni, sono stato 30 secondi. Cioè, Balotelli, io sono interista, ma Giovinco quando scende in campo nella Juventus anche 20 minuti lo vede che si danna l'anima, si sbatte a destra, a sinistra, corre. Lei non so se ha mai visto giocare Balotelli, sì, soprattutto in quest'ultimo periodo. Sarebbe da tirargli una scarpa in faccia come ha fatto con Bush in Iraq. Cioè, capisce bene, voglio dire, almeno tu fai vedere che giochi. Giustamente Mourinho ha detto, ma che cosa ha fatto? Chi sei? Non sei nessuno. Cioè, c'è Zanetti che ha 35 anni che corre ancora 4 ore al giorno per essere al top della forma. E tu che non hai dimostrato ancora niente? Sì, no, io non ho idea di come sia in allenamento Balotelli, perché in allenamento non lo vedo. Lo vedo in partita, ma a spizzichi e bocconi, e certamente Mourinho non è soddisfatto di quello che sta facendo dal punto di vista probabilmente dell'applicazione di una maturità tattica che non può avere. Questo è un discorso. Vale però, ripeto, anche il discorso per cui noi i giovani diciamo a che bravi, e poi siamo abituati a vederli in panchina con il bigliettino, come avete presente al supermercato, il bigliettino in mano in attesa che i vecchi gli lascino un po' di spazio. Poi per quanto riguarda nello specifico Balotelli, ripeto, certamente Mourinho ha il polso della situazione e ce l'ha in maniera precisa, quindi non sarà soddisfatto di come Balotelli si allena e dunque lo mette in panchina. La questione è, secondo me, non è stata gestita nella maniera migliore. Tutto l'insieme della questione non è stato gestito nella maniera migliore. Grazie Stefano, torna a trovarci quando vuole. 800 24 00 24 è il numero verde. A proposito di Balotelli e delle dichiarazioni di Mourinho, le risentiamo così ci rinfreschiamo la memoria. Io non so se è il giocatore che non vuole essere qua, se è il fratello che non vuole che lui è qua. Non conosco bene la realtà. Quello che ti posso dire. Che posso dire è che mi piace un giocatore che pensa da solo. Ovviamente che un allenatore aspetta sempre il massimo dei suoi giocatori. Se io dico che sono soddisfatto del suo rendimento, non sono vero, sono bugiardo, no? A me mi fa un po' di fastidio, perché è un ragazzo fantastico. Non è per me un piacere di non convocarlo. Non è per me un piacere che lui in questo momento non è felice. Penso io che non è felice, o è il fratello che non è, e perché il fratello non è, lui non è, non lo so. Così José Mourinho, con un allenatore così basterebbe, secondo me, mettersi d'accordo. Può essere nell'interesse di tutti che Balotelli vada a giocare da un'altra parte, se Mourinho lo ritiene. Altrimenti, se Mourinho ritiene opportuno, utile averlo all'Inter, credo che per Balotelli valga anche la pena di essere allenato da un tipo così. Poi sono tutte cose che non possiamo sapere fino in fondo: quello è il rendimento di Balotelli in allenamento, il grado di soddisfazione di Mourinho, ciò che Mourinho chiede Balotelli non riesce a dare, perché tutti i discorsi da approfondire. Io quando vedo un giovane però che viene messo ai margini, che sta molto in panchina, insomma, ritengo anche legittimo che il diretto interessato possa chiedere di andare altrove a giocare. Dunque, Serie B, siamo agli ultimi giri d'orologio, sono finali i risultati di Bari, con il Bari che ha vinto 1-0 con la Salernitana, e di Vicenza con l'1-1 tra Vicenza e Parma. Tutti gli altri sono ancora parziali e non sono cambiati i risultati rispetto all'aggiornamento precedente. Aspettiamo che finiscano le partite e poi facciamo un paio di conti. Raffaele, provincia di Bari, buongiorno. Sì, buongiorno. Ho chiamato perché ho appena acceso Radio 24 e sentivo parlare di Balotelli. Sì. Mi è venuto in mente un articolo che ho letto un po' di tempo fa, e vorrei chiedere a voi se è vero che Balotelli guadagna 1 milione di euro. Sì, rinnovato il contratto, eccetera, eccetera, sì, sì. Ecco, io mi domando se a un ragazzo di quell'età pagarlo 1 milione di euro come stipendio sia normale. E mi chiedo se tutte queste cose succedono sempre solo all'Inter. Io sono interista, premetto. Sì. Quindi, secondo me è anche una questione di società che deve inculcare la mentalità della società. Tu sei indipendente, sei uno stipendiato, tu fai quello che dico io e fai la vita da atleta, perché non scordiamoci che il calcio, che è uno sport, richiede una vita da atleta. E sì, esempi in Italia di giocatori che hanno condotto una vita da atleta e hanno giocato e continuano a giocare a 40 anni ce ne sono. Quindi bisogna chiedere a un ragazzo di quell'età che si sta ancora formando sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale di assumere un atteggiamento da atleta. Solo sì, questo volevo dire. Grazie. Sì, no, grazie a lei Raffaele, ma non insomma taglierei corto dicendo che secondo me Mario Balotelli fa una vita da atleta. Ripeto, la questione è stata gestita non benissimo secondo me da entrambe le parti. È una questione di chiarezza reciproca. Balotelli vuole giocare, è chiaro che nessuno può avere pretese di questo tipo, tantomeno all'Inter dove c'è in attacco ovviamente Ibrahimovic che non si tocca e gli altri che gli girano intorno e che aspettano il loro turno. Semplicemente questo, io non credo che sia una questione di far vita d'atleta, credo che Balotelli faccia altro che vita d'atleta. Si tratta di capirsi in questa vicenda e magari di capirsi senza andare a dire a destra e a manca: ho chiesto un incontro con Moratti, voglio essere ceduto, voglio andare a giocare altrove, Moratti si incontrerà a Balotelli, insomma si parlino e decidano cosa è meglio nel rispetto reciproco. Non credo sia una questione di far vita d'atleta o meno, e nemmeno una questione di ingaggi, perché buttarla sui soldi è sempre un po' semplicistico. Vorrei invece andare in Serie B, dove stanno finendo le partite, e commentare rapidamente la giornata con Guglielmo Longhi, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Buongiorno Guglielmo. Salve, buongiorno. Senti, mi risulta che tu abbia visto Livorno, Albino Leffe Livorno, giusto? Sì, ho visto la vittoria della faticosa ma meritata del Livorno, che permette alla squadra di Acori di essere sola al comando. Insomma, si è sgretolato il gruppetto delle cinque capoliste, è durato solo lo spazio della pausa natalizia. Mentre la Triestina che vince 2-0 con l'Empoli, come commenti questo risultato? Ma dunque, l'Empoli fuori casa ha sempre alternato quest'anno delle prestazioni sconcertanti, non ha mai trovato continuità. E adesso io non so se Granocce poi oggi è entrato per determinato, è riuscito a essere determinato. Dunque la Triestina è una buona squadra, anche senza Allegretti, che oggi non era infortunato, e ha colto una importantissima vittoria. Non mi stupisce. Per finire, Avellino Modena 4-3 con l'Avellino penalizzato di 4 punti per mancato pagamento di stipendi, era un confronto diretto salvezza, mai ti aspetti 7 gol. 4-3 il risultato finale. Sì, possiamo dire il partenio come la stecca, perché sì, veramente Modena ormai è una squadra purtroppo per problemi societari e non alla deriva. L'Avellino ha tirato fuori, chiamiamolo la reazione dell'orgoglio, che perché 4 punti di penalizzazione che si è preso ieri incideranno pesantemente sul campionato. Grazie Guglielmo, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie Guglielmo Longhi, inviato dalla Gazzetta dello Sport. L'Ascoli nel finale batte 1-0 il Treviso, gol di Gaeta al 43esimo della ripresa. Bari batte Salernitana 1-0, Cittadella Frosinone e Mantova Piacenza sono finali, tutte 2-0-0. Grosseto batte Ancona 2-1, Triestina batte Empoli 2-0 appunto, e Vicenza Parma 1-1. Questi i risultati della 20esima di Serie B. Ci sentiamo domani pomeriggio dalle 17 alle 19 per parlare di sport. Grazie a Gigi Borghi in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Buona serata a tutti.